Sì, la scelta fa riferimento a questo personaggio comico interpretato da Caterina Guzzanti qualche anno fa, Vicky di Casa Pound, che appunto usava questa frase per contrastare qualunque tipo di domanda delicata a cui non era in grado di rispondere. In fondo io faccio riferimento a quel personaggio per, diciamo, giocare ironicamente sull'uso strumentale che viene fatto di questa vicenda. Però appunto a me interessa soprattutto analizzare questo uso strumentale, cercare intanto di ribadire la verità storica e poi di capire perché viene fatto questo uso strumentale e qual è lo scopo. La presenza nel discorso pubblico della questione delle foibe è cambiata e aumentata negli ultimi 15 e 20 anni e diciamo l'inizio di questa trasformazione avviene in un momento particolare, a partire dai primi anni 2000. C'è una reinvenzione proprio del calendario istituzionale in cui si colloca anche la questione delle foibe. Ci abbiamo con la presidenza Ciampi, viene ripristinata nel 2001 la festa della Repubblica, quella del 2 giugno, con tanto di sfilata militare, bandiere tricolore e inno nazionale. Nel 2004 viene istituito il giorno del ricordo e nel giro di 15 anni l'ideologia nazionalista invade la politica, anche attorno a altri due anniversari, i 150 anni dell'Unità d'Italia e il centenario della Prima Guerra Mondiale. Come è avvenuto quindi il passaggio della commemorazione delle foibe a partire dal 2004 da una nicchia, diciamo, di estrema destra alla liturgia e pedagogia pubblica? Secondo me questa vicenda ha subito varie strumentalizzazioni nel corso dei decenni. Si sono concentrate in ambienti politici differenti. Nel momento in cui viene istituito il giorno del ricordo, sicuramente la volontà politica bipartisan, quindi in particolare dei due partiti che più l'hanno voluta, cioè l'Alleanza Nazionale da una parte e il PDS dall'altra, quindi gli eredi diretti, diciamo, dei fascisti e dei comunisti, era una volontà di tipo nazionalista, possiamo dire tranquillamente, nel senso l'idea di costruire una giornata memoriale che ricucisse lo strappo tra gli opposti estremismi avvenuto durante la guerra civile tra il 43 e il 45 sulla base di una visione nazionalista di una vicenda che in realtà aveva aspetti soprattutto ideologici e non nazionali, quindi la costruzione del mito della pulizia etnica, dell'espulsione forzata degli italiani, questi aspetti hanno a che fare con questa visione forzatamente nazionalista della vicenda in cui gli slavi sono i cattivi aggressori, gli italiani sono le povere vittime, cosa che peraltro in qualche modo capovolge la realtà storica, perché ben sappiamo che invece l'Italia che ha invaso la Jugoslavia nel 1941 e non il contrario. Negli anni successivi però secondo me si è andati progressivamente scivolando verso una rielaborazione di questa vicenda in chiave più esplicitamente fascista e sempre meno nazionalista, quindi sempre meno condivisibile anche dai partiti, diciamo, non esplicitamente di destra, almeno questa è la mia visione, ed è che un po', secondo me, evidenziata dallo spostamento di prospettiva che avviene tra i due film dedicati a questo tema, prodotti entrambi dalla Rai, Il cuore nel posto nel 2005 e Rosso Isca nel 2018, per cui mentre nel cuore nel posto sono entrambi film, diciamo, inguardabili per mille ragioni e pieni di errori storici, ma però l'aspetto che mi interessa è che mentre le vittime del 2005 sono rappresentate chiaramente come italiani qualunque, quindi c'è il soldato, c'è il prete, c'è la ragazza, sono un po' persone normali e quindi appunto nella prospettiva di dare l'idea che le vittime fossero italiane e basta, in cui chiunque si poteva riconoscere. Invece nel film del 2018, trasmesso per la prima volta nel 2019, le vittime sono chiaramente identificate come fasciste, sono rappresentate in camicia nera, inneggiano il duce e invocano l'intervento dell'esercito nazista in loro difesa, il che rende lo spettatore, porta lo spettatore a identificarsi con queste vittime, quindi con le vittime fasciste. Per cui c'è uno spostamento di prospettiva decisamente schiacciato sul vittimismo fascista, non italiano. Quindi in qualche modo si vuole portare questa giornata ad essere non solo una giornata di orgoglio nazionale contro un ipotetico nemico straniero che ci avrebbe aggredito, cosa che ripeto è un po' il contrario della vicenda storica reale, ma per di più una giornata di orgoglio fascista, di fascisti vittime dell'aggressione comunista. In qualche modo quindi contrapponendola alla giornata del 25 aprile, cioè alla liberazione, che invece in questa prospettiva sarebbe il contrario, ovvero la giornata dei comunisti aggrediti dai fascisti, o comunque la giornata dedicata ai comunisti, cosa che secondo me è sbagliata, perché la giornata della liberazione dovrebbe essere la giornata di tutti, la giornata non una giornata divisiva come vorrebbero appunto le destre, ma la giornata della nostra democrazia, della nostra repubblica.